Sono stato alla Biennale di Venezia e sono su un Italo che mi sta riportando a Bologna. Quindi avremo un sacco di contenuti interessanti sul fronte dell'arte contemporanea. Un sacco di contenuti interessanti, certo. Invece noi qui stasera ci diamo dentro con... se me lo fa partire, sì. Performance, ricerca, teatro. Dico bene, ragazzi? Certo. Assolutamente sì. Perché Mr. Ubba è un... com'è che si chiama? Stand-up one man show band... Potremmo dire, questo è il genere, capisci? Comedy. Ecco. Wow, stand up comedy. Dai. Poi abbiamo Mr. Bon Bond. Che... Bon Bond, produttore di cioccolatini in questo caso. E Super Piro Max. Max? Chi è Max? Piroplex. No, va bene, ok. Finalmente avremo una trasmissione divertente. Per... Beh, insomma, hai capito, c'è della gran braga, forse è per questo che non ci sei. Ah no, ed è per questo che tu sei così contento. Eh sì, sono contentissima. Poi c'è anche della Braga che ci sta ascoltando in altra regione, e salutiamo la squadra dei Rigger che al momento sono stanziali a Lignano, e continuiamo con questo, anzi iniziamo con questo mega galattico coxo senza Stefano Pasquini. Ma dimmi un po', c'è qualcosa che vuoi dirci di pregnante prima che ci salutiamo? Sì, la Biennale di Venezia. Basta. Ok, è abbastanza pregnante. Ne parliamo la settimana prossima con te, allora, e con i tuoi, certo, fantastici contenuti multimediali. Ok, allora è bello vedere come le persone che vanno alla Biennale di Venezia sono abbastanza colte. Cioè, pregnante è una parola che io, ad esempio, cos'è un mastice? No, per dirti che pregnante l'ho detto io, che solo conosco Pasquini che va alla Biennale, che io non ci vado da 20 anni alla Biennale. Sì. Esatto. Va bene, buon viaggio, salutaci Italo e spero che facciate belle chiacchiere. Ciao. Molto Italo. Grazie. Ciao Pasqu. Ciao. E tornando a noi qui in studio, che io sono tutta quanta così trafelata da tutta questa preponderanza maschile, insomma, fortuna che c'è il vetro, che se no poi non lo so, ma insomma, mettiamo un bel branino, così facciamolo, così poi ricominciamo con ordine, io mi calmo un pochino e tutte queste belle cose qua. Metti Brianino. Metto Brianino? Metto questa qui. Cox spaziale. tosti, Motor Psycho, il mio brano preferito dei Motor Psycho. Bello, richiamano un po' i Morphine, mi sembra. Cioè, altra roba. Ma. Questo me lo dice Bon Bond? Ma te lo dice Uba. S'avvicinassero. Bene, la 266esima puntata del Coxo Spaziale è partita con tre coxonauti, di cui uno è il, diciamo, l'epicentro della puntata, Mister Uba. Allora, ciao, sono io, Mister Uba. La prima cosa che vorrei fare è ringraziarti veramente tanto per averci invitato in televisione. È una vita che sognavo di avere la possibilità di entrare con la casa, con i ragazzi, dentro la casa con i ragazzi, Barbara. Veramente grazie per l'occasione, ci siamo anche preparati una sigla ad hoc, quindi se mi sfumi il brano, andiamo con la melliflua sigla. Ciao a tutti, benvenuti a Uba Comedy Show. Uba, Uba, Uba, Uba. Live comedy. Sono strefatta. Mai coxo fu così sibillinamente, non so dire altro. No, comunque bellissimo, è per questo che siete vestiti così come le maggiorette della parata del 4 luglio. Assolutamente sì, amiamo i vestiti a pois. Sì. E poi ci piace unire i punti. I bastoni delle maggiorette. Sono i bastoni delle maggiorette, decisamente belli, belli i bastoni delle maggiorette. Sì, su quello io tralascerei. No, ma tu no. No, allora direi sveliamo, perché io vi ho qui davanti, quindi so quale tripudio di splendore e scenografie, apparati, costume, grafici voi siete in grado di effetti esibire. Speciali, esatto. Siamo preparati per la televisione, ascelle psichedeliche incluse. No, e come potremmo presentare il tema di questa trasmissione, ovvero tu, Uba, ai nostri ascoltatori? Guarda, si parla di performance teatro. Si parla di performance teatro, oltre sì, che di televisione. Si parla di spettacoli in cui si parla di cose. Di cose complicate, ma di cose che comunque riguardano la vita profonda e anche spirituale, devo dire, di tutti noi. Come ad esempio il fatto che ieri ho telefonato al mio commercialista e gli ho chiesto se si possono scaricare le pile per i microfoni, giustamente, i gelati. Lui mi fa dice no, perché tu non sei un elettricista. Però vaglielo a spiegare tu che il teatro è un'arte grande e vasta come il mondo, e che compete le cose del mondo, e quindi il mondo ce lo tira dentro e puoi scaricare anche la spesa. No? Lo farò. Ma per caso c'è anche il commercialista lì? Assolutamente sì, il Bond funge anche da mio commercialista, vero? Sono Bond? Commercialista, produttore, ingegnere del suono, scrivo tutte le battute, e salgo sul palco al posto suo vestito da Uba. E praticamente lo spettacolo sono io, ma rimango sempre nell'ombra. Sì, e comunque con così. Umiltà, con umiltà, con estrema umiltà. E invece Piro, Piro, sì. Si avvicini di più al microfono. Avevate ragione, Uba 2 metri indietro, voi angioletti più vicini. Noi timidi. No, complimenti per quello spettacoloso coro di introduzione. Avrei voluto visto? Veramente avere una telecamera ed essere un broadcast. Sono anni video. Anni che prepariamo questa. Comunque sappi che non lo rifaremo mai. Quindi. È una gemma coxica, sì, un'esclusiva, sì, sì. Meraviglioso, spero meraviglioso. Puoi mandare l'MP3. Da domani su www.coxospaziale.blogspot.com la trasmissione è riascoltabile, i link sono trovabili e anche le foto di Uba che si spoglia. No, ma voi... Voi non puoi. Voi attenzione. Voi che siete i suoi sostenitori e la sua boy crew. Sì. Ma come l'avete incontrato e com'è che vi siete lasciati stregare dal fascino di questo? Ci siamo scontrati in piscina. Ah. Io facevo la vasca A B, però andavamo storti, andavamo. Chi è che andava contro mano? Tutti. Una capocciata micidiale. Sai che Piero l'altro giorno, mio figlio è tornato a casa dalla piscina, arriva e mi fa: babbo, ma quanto è faticoso nuotare in salita? Ed effettivamente quella volta lì io mi ricordo che facevi molta fatica, Piero. Sì, sì. Quindi abbiamo questa puntata dedicata a Uba, padre di famiglia. ed alle performance quotidiane nella famiglia per la cura, l'affetto, la crescita. Sì, lontano, ecco, lontano, si allontani dal microfono. Se mi dai la possibilità, vorrei fare un annuncio qui in questa sede in televisione, finalmente che posso avere questa possibilità. Io ho due figli, se qualcuno li vuole. Sono cresciuti già bene. Telefonate, ecco, mi sta telefonando mio padre probabilmente per dire: non dare via i miei nipotini. Ma allora prenditeli tu, scusami. No, dicevo a proposito di questo: 333 180 94 94 per chi voglia provare ad indovinare chi e cosa fa Uba. Oppure per chi vuole i miei figli, adesso non. Sì, o l'uno o l'altro, entrambi si fanno avanti per questo tema, potranno vincere un ingresso sconto, oppure anzi no, perché queste cose a teatro non si fanno mai, potranno vincere un encomio solenne quando verranno a vederti allo spettacolo di domani. Assolutamente no. Una menzione d'onore comunque sì. Una menzione d'onore sì. Quindi sì, 333 180 94 94 sì. E in mancanza d'altro suggerisco agli aiutanti di mandare dei messaggi che ci facciamo le domande da soli, almeno ravviviamo il programma. Guardate che prendo il telefonino. Il telefonino, vecchio. Termini parli come mio nonno. No, quindi stavamo dicendo, vi siete incontrati in piscina? Sì. Vai pure. No, vada lei, mister Piero. Allora, ci siamo incontrati in piscina, Piero nuotava nudo. Ah, interessante. Racconta pure, Piero, racconta. Ha lanciato del questo. Perché tu eri in piscina ignudo. Racconta, Piero, racconta. Ecco, è partito. Perché cioè, avevo caldo. Più vicino, mister Piero, più vicino. Era caldo. Era molto caldo. Era un po' in salita, sudava. Era un po' in salita. Stavo sudando un casino, c'avevo proprio. Era come se fossi completamente bagnato dalla testa ai piedi. E quindi ho detto: mi tolgo i vestiti, che sono bagnati. Sì. Fanno umidità. E quindi io sono andato contro di lui. Lui era tutto sudato fradicio, cioè era proprio bagnatissimo e ignudo. E lo vedevo anche un po' sconsolato proprio per questa cosa della salita. Quindi ho detto: tranquillo, Piero, perché poi quando torno indietro è tutta discesa. No, difatti dopo ho fatto molta meno fatica. Proprio andato via pari. Tutta la trasmissione sarà impostata su salite e discese e piani inclinati. Ma quindi, così lo è anche il tuo spettacolo di domani? Perché domani abbiamo uno spettacolo. Domani abbiamo uno spettacolo a San Siro. Sì, c'ero, sì. Finalmente sono arrivato nella patria del golf. Il tempio del golf. No, domani abbiamo uno spettacolo al teatro del Baraccano. Ah, dai, qui a Bologna allora. O dentro il San Siro c'è anche un Baraccano. Come Bond dentro uno. Cioè, è chiaro. San Siro dentro al Baraccano. Sì, è tutto una cosa di scatole cinesi alla fine, se ci pensi. È un teatro che include il mondo intero e anche gli stadi. Comunque, spieghiamolo ai commercialisti. Ai commercialisti. Assolutamente. No, dunque, domani quindi c'è questo spettacolo, Barbara, al Teatro del Baraccano. È uno spettacolo che si chiama Uba Live Comedy. No, si chiamava no, quello lì è il genere, quello lì è il genere. Sono perso. Scusi, io in quanto Barbara, oltre a questa meravigliosa luce effetto d'urso, c'ho anche sono ringiovanita. Sotto, no, alza l'esposizione, credo, però sovraespone. Noti come sto scintillando. Cioè, sembra in piscina. Ma vedi quanto è colta? È colta. Sovraesposizione. È l'arte contemporanea, ragazzi. Me fa così, come dei brufoli. Vengono fuori sti paroloni. Senti un po' che cosa. Fra l'altro, mi veniva spesso l'anno scorso, adesso un po' smesso. Rizomatico. Vabbè, a questo punto, ragazzi, ce ne andiamo. Sto già uscendo dalla porta. No, come ho detto, Coxo for Rewind. No, quindi. Questo è tipo un momento classico, perché questo è il classico vuoto cosmico, del vuoto coxico che deve esserci ad ogni puntata. Di solito c'è quando Pasquini fa le battute, questa volta in assenza di Pasquini l'ho fatto io. Ma tornando a noi, quindi e il genere fatto benissimo. Rizomatico con due z. Boh, io conosco rizlomatico, ma con la L. La rizla. quindi Riz. Non puoi fare pubblicità occulta in televisione, vecchio. Ah, è vero. In radio sì, però. Ah, è giusto. Quando andiamo in radio lo puoi fare. No, vabbè, ma qui mandiamo anche in radio. Non lo so, è il sogno di una vita, vecchio, non so, ci mandano sempre in televisione, cioè, non so. Barbara, scusa, mandaci in radio. Ecco, sì. Allora, volevo informarvi che questa diretta è anche mandata in radio. Io A Bologna, solo a Bologna. Attenzione. Frequenza 103.1 di Fujiko, anche se penso Radio Città Fujiko, anche se penso che dopo questa puntata il coxo spaziale sarà cancellato dalla programmazione e andremo tutti in televisione. Ma a San Siro il contratto non diceva questo. Non dico da produttore sempre biologico, ecco, bisogna che produttore biologico, sì, di cioccolato, ecco, dopo magari cerca di contenere gli effetti serra di Uba. Assolutamente spregiato. No. Comunque io adesso non vorrei, non so se dirla questa cosa. Cosa faccio, la dico? Ma perché se la devo dire la dico. Però qui abbiamo trovato rizoma, ecco, senza pe davanti. Senza pe. Ma non è ancora più nudo di Pio in piscina. Ma non pe. No, scusate, non rizzo, rizma. Cioè, mi sembra che l'etimologia, giusto? Lei che è il produttore di formaggi, bomba. Sì. Al cioccolato. Forse bisogna cercare rizmatico senza la O. Rizmatico. Ma comunque, nel caso, scriviamo la Crusca. Recentemente stanno provando praticamente di tutto la Crusca, eh? Cioè, digeriscono praticamente ogni parola. È così che fai l'effetto serra, poi. Troppe fibre. No, ma le fibre fanno bene, sempre e comunque. Soprattutto alle signore, in realtà. Perché? Questa ce la spieghi, però, eh? Mandiamo un brano? allora, sì, mandiamo un brano perché ci stiamo avvicinando al momento mistico di ogni puntata del coxo. E perciò ravvivo il computer. La bella puntata del coxo. Momento mistico. Esatto, è una delle più belle puntate del coxo che io abbia mai fatto, vi ringrazio. E per introdurci a quel momento mistico metterei questo brano qua. Through the dust of that rented room, you stumbled through. It was only you seemed such a short while. We had no time to cry. I sit and wonder why. We had so many things we had to get through. We tried the cinema within half an hour. We had to go find some places, mom, you know. We tried a drinking bar, it gets so very hot. And when the cab rider hits you too long, we go fuck in the bathroom. We can't afford the time to sit and cry or to wonder why. We got so many things we had to get through. Because of that rented room, yeah, we stumbled through. We had so many things, darling, said we had to get through. And cry or to wonder why. We got so many things we had to get through. We haven't got the time for telling lies or to even try. There's only days in between. È un pezzo di una bellezza soverchiante. Ma Ma ma io non lo so, ma io questo brano lo trovo sexy. È un brano. Scusate, Piero ha perso la lingua. Te l'ho schiacciato con la sedia. A proposito di sedie, ma in questa televisione, no? Sono per riempire l'atmosfera sonora. Avete delle sedie? Facciamo un pezzo con i cigoli delle sedie. Facciamo un pezzo con i cigoli. E poi lo trasformiamo in un pezzo dance. Scendendo questo spaziale. Vai a Dubai. È una hit, ragazzi. Ok, allora, ciao. Visto che avevamo anticipato il momento sì, serio. Quello lì, no, che è serio, quello mistico. Ecco a voi il momento mistico. L'angolo della menzione. Siete pronti con quel bel file che avevate sul computer? Ravvivatemi il computer. È ravvivato. E allora vediamo, chi legge prima? Piero. Da sabato 11. Io non vedo. Che è il più lontano di tutti. Chi suggerisce? Sabato 11 dalle ore 15. Aspetta che tiro sul volume. Sabato 11 dalle ore 15, Gran Festival Internazionale della Zuppa. Zuppa. Parco Pasolini. Finalmente, dopo i rigori autunnali della scorsa settimana, gli zuppanti si preparano per dare assaggio delle loro specialità. Chi vincerà il mestolo d'oro? Lo scopriremo solo domani al Parco Pierpaolo Pasolini. Non mancate. Ah, bisogna leggere anche il link. No. https://www.ps. Va bene. Vado io con sabato 11, ore 21, che è lo stesso sabato della zuppa, però prima andate a mangiare la zuppa e poi quando siete belli pronti andate per questa, com'era? Comedy. Ore 21, Uba Live Comedy / no, com'è? Cancelletto 83. Anch'io faccio gli spettacoli numero col 83. Cancelletto. Si chiama numero? Sì. Fa bello, fa figo il cancelletto prima dei numeri. Però vabbè, al Teatro Baraccano, che è dentro San Siro a Milano, dico sì, bene? Non mi cambi il titolo dello spettacolo, attenzione. Il produttore se ne risente qua. Quindi allora diciamolo bene. Uba Live Comedy numero 83. 83. Mi raccomando. Tre. Dopo 82 spettacoli in giro per l'Italia, Uba debutta a teatro nella sua città natale con un'ora di materiale nuovo. A grande richiesta, la prima parte dello spettacolo verrà messa in scena a colori. Fine. Chi legge il link? https. È come quello di prima. E poi abbiamo l'ultimo, chi lo legge? Mercoledì 15 invece, alle ore 21, abbiamo Al Freak Out, European Ghost. Leggo testualmente. Dopo un diffuso tour europeo, tornano nuovamente a Bologna gli European Ghost, il formidabile trio che domina magistralmente i generi dark wave, post-punk, elettronica. Si è sentita la litate? Sì, si è sentita. È arrivata a tutti. E anche le menzioni sono fatte, ce l'abbiamo fatta. E questa è fatta. La parte? Paesaggi spaventosi. Wow. Può c'entrare con il genere in questione? No, allora, abbiamo visto che quindi è immancabilmente chiaro che siamo qui riuniti per anticipare uno spettacolo che andrà in scena domani al Teatro del Baraccano a Bologna dalle 21. Poi nei link, beh, insomma, alla fine noi pubblichiamo domani, quindi link per la prevendita e tutte le cose dei biglietti, forse è un po' tardi sul nostro blog, però se voi cercate... Sì, guarda, i biglietti in prevendita, scusate, mi faccio serio perché altrimenti il mio produttore Bond poi... Mister Bon allora, Bond. Siamo ufficialmente nella parentesi seria, sì, della trasmissione. Tre minuti. Pochissimo. Tre minuti. Belli concentrati. Vai. Perché se non sono serio poi il mio produttore Bond mi schiaffeggia sulla chiappa sinistra. Siamo la gay crew. Or dunque, domani sera questo spettacolo si terrà al Teatro del Baracano alle ore 21. È uno spettacolo di... Ha cambiato genere. Comedy. Si può dire, alcuni credo lo chiamerebbero stand-up comedy. In realtà è uno spettacolo forse un po' più vario della semplice stand-up comedy. Dentro c'è un po' di tutto, c'è la Loop Station... Ci sono delle canzoni originali, c'è qualcosa al pianoforte, qualcosa alla chitarra, oggetti che volano, oggetti che atterrano e persone nel pubblico, sedie su cui saranno sedute le persone nel pubblico, questo sì. Me lo confermi. C'è un palcoscenico anche, dicono. Ci sarà anche un soffitto perché... Se piove. E se non piove ci sarà lo stesso. Okay. È uno spettacolo surreale. Questo possiamo dirlo o deve essere un segreto? No, possiamo dirlo. Possiamo allora, dirlo. Diciamolo. Adesso però. Però diciamolo adesso e mai più. Okay. Quindi è uno spettacolo surreale, possono venire grandi e piccini, non è uno spettacolo scurrile. Con volgarità, scurrile o parolacce come stile, è uno stile pulito e spero che sia abbastanza creativo e bello per chi viene a vederlo, insomma. Bene, il momento noia, credo che l'abbiamo centrato in pieno. No? Ma correte numeroso. Voto 10, Piero sta dormendo. Piero. C'era della gente che voleva venire prima di questo annuncio e adesso non viene più. Sì, ma adesso ci restano ancora circa 20 minuti di trasmissione per riprenderceli. È che ci ho tenuto tanto io a questo momento, devo essere. Quindi se magari le vendite vanno a picco e i biglietti ve li chiedono in rimborso, potete rifarvi su di me. Guarda, comunque, bisogna sempre ricordare che l'11 maggio alle ore 21 c'è questo spettacolo, poi possiamo dire... Fregnacce per tutto il resto del tempo. Ma come si intitola lo spettacolo? Lo spettacolo si intitola Uba Live Comedy 83, perché è l'83esimo spettacolo che faccio in giro. Quando è cominciato? È cominciato circa 3 anni fa facendo... 83 spettacoli in 3 anni? Sì. Sti coxi, so tanti, eh? Ma 82 le hai fatti in casa, eh? No, soprattutto 82 le ho fatti ieri. Cioè per 2 anni e 11 mesi. E, beh, sì, conta tutto. Conta le prime esibizioni da 5 minuti negli open mic in giro per l'Italia. Conta tante esibizioni che ho fatto insieme a un gruppo di sbandati che si chiamava La Factory di Renato Tabacchi. Abbiamo organizzato tanti spettacoli in giro per l'Italia di stand-up comedy dove c'erano anche altri comici dentro. C'era Max Guidetti, Rossella Cabiddu, Michele Gruppioni, c'era anche Silvio Perfetti che forse ogni tanto parla anche al microfono di questa radio, quindi lo saluto. E quindi sono stati tanti spettacoli in giro per trovare un po' la chiave dello spettacolo che poi domani porterò a teatro, perché effettivamente salire su un palco e far ridere le persone è una cosa non facile, bisogna fare una ricerca, credo, di una strada e di uno stile. Come dico sempre a mia moglie, dico: tesoro, guarda che salire su un palco e far ridere le persone è molto difficile. E lei sempre incoraggiandomi mi dice: sì, no, l'ho capito venendoti a vedere. E quindi è così, con 82 spettacoli fatti in ogni angolo d'Italia, in ogni tipo di condizione, con gente che mi lanciava cose, io che lanciavo cose al pubblico, microfoni che si rompevano. Ne sono successe veramente di ogni. E poi si chiama stand-up comedy, ma spesso tu finisci anche per terra. Capita. Capita anche quella. È capitato alla Pares. È capitato al circolo La Pares qui a Bologna. Saluto i gestori del locale che mi adorano. Ne approfitto per salutare anche i gestori del Macondo, altro locale che mi adora. Stasera lanciai i cuccioloni dal palco. E alla fine c'era gelato sparpagliato su tutto il... E quindi tutti sono scivolati e sono cascati tutti giù. Sì, è una cosa che ho fatto anche al Locomotive, ancora ce lo ricordo. Non so sempre più grande. Sempre più grande. Era in apertura Edda e fu molto divertente. Edda, non so se lo conoscete, un grandissimo artista, uno dei più grandi musicisti che ci sono oggi in Italia, Edda. Ma infatti, tornando ai contenuti polisemici del tuo spettacolo. Mamma mia, io ragazzi, è troppo colto. No, non me sto. Però se tu fai il produttore. Io pensavo già per andare. Cioè, non so. No, vorrei rivolgere. Però una... questa cosa la devi premettere a chi viene qui, perché. Vorrei. Io ho avvertito, scusa. Vorrei rivolgere una domanda a Mr. Piero, che mi è giunta voce in qualche modo parteciperà attivamente allo spettacolo di domani. No, è una burla, non è vero. Nega sempre, anche l'evidenza. Assolutamente, sono in malattia domani. Comunque in questo spettacolo c'è anche... C'ho il controllo... C'è controllo medico? Io sto ridendo troppo, non dovrei, sei impassibile conduttrice. Ma Barbara, tu puoi fare quello che vuoi. Ah, è vero, come Barbara bisogna ridere invece, anche un pochino più così a mascella aperta. Ragazzi! Quindi Piero è in visita medica, però ci sarà attività sportiva prima dello spettacolo. Sì. Anzi, cioè dovrei, c'è una piscina anche. C'è scritto nell'evento che devono venire con le scarpe da ginnastica? Non c'è scritto, ma sarà una sorpresa quando scopriranno che ne avevano bisogno. E il famoso teatro interattivo? Esatto. Va bene, allora sì. Visto che ci stiamo lanciando così tanto verso la surrealtà più assoluta, direi di ripiantarci bene in terra con l'ascolto di un brano degli European Ghost. Totale bomba. Yeah. European Ghost, dico bene? Esatto. Ciao Cristiano, cantante degli European Ghost. Ciao Petra e ciao agli ascoltatori. Che bello averti qui, cosa ci racconti di questa nuova data dopo tutti questi giri per l'Europa? Allora, è una data molto interessante perché oltre a vedere naturalmente tutti i nostri amici e fan di Bologna, suoneremo in compagnia del gruppo Headliner, che è un gruppo femminile irlandese, le Kelly Mitla, che ultimamente sta avendo un grande successo in tutta Europa. Stiamo parlando di una specie di post-punk un po' atmosferico, anche con una influenze un po' wicca, perciò vedrete sul palco anche Vincenzi, Luci Particolari, Carillon, ed è un gruppo che è un po', diciamo, la parte bianca rispetto alla parte nera che saremmo noi che introduciamo il concerto con una musica un po' più viscerale e cattiva. Ah, meravigliosa, però hai detto un sacco di cose di quest'altro gruppo, ma del tuo? Ah, beh, sì, ho detto un po' meno. Diciamo che il nostro gruppo è una forma di un gruppo post-punk elettronico che è nato circa 3 anni fa con un'etichetta francese, la No Pleasure, e insperabilmente nato come una specie di gioco, è diventato un progetto che sta avendo un buon riscontro sia a livello europeo che mondiale, con diversi passaggi radio e alcuni concerti, perciò è sicuramente un'esperienza molto interessante anche dal punto di vista umano, confrontarsi con un pubblico di vasto respiro. Benissimo, allora io adesso qui non devo far altro che strapparti la promessa a venire qui al Coxo a trovarci in diretta insieme a tutta la band. Molto volentieri, molto volentieri. Testimoni, testimoni, abbiamo i testimoni? Strappata. Sì, ci sono, credo. Okay. Allora vi aspetto mercoledì tutti al Freakout, ok? Indubbiamente. Dress code? Dress code assolutamente libero, assolutamente libero. Ah, vabbè, peccato, speravo di potermi sbizzarrire. Ok. Vabbè, va bene. A presto, okay, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. European Ghost, eh? L'ultima volta che sono andato a un concerto post-punk c'era uno con una rete da pollaio in faccia. Rete da pollaio? Ma sì, la rete da pollaio è de ferretto, no? Sì, sì, de ferretto proprio. In faccia, non faceva malino. Sì, era tutto, cioè tipo aveva una zanzariera davanti, fai conto. Ah, carino e quello. E sotto era tutto truccato, capelli sparati. Ma ci andiamo così anche sì, noi? Sì, sì, sì, assolutamente sì. Perché io ormai, caro Uba, di là siete tutta Braga, ma ormai tu mi hai conquistato, io devo diventare una Uba fan, seguire l'onda e ballottare insieme. Ecco, andiamo tutti insieme al concerto degli European Ghost. Sì, al Freakout. E anche alla Zuppa domani. Esatto. E poi da te sicuramente. E nessuno di noi vada domani al Teatro del Baracchino a vedere Uba Like Home. Non vado neanche io, ma io piuttosto vado a vedere il Festival della Zuppa, scusate. No, ma la Zuppa è nel pomeriggio. Ah no, mi tocca fare lo spettacolo. No, zuppa. Zuppa. Cancella tutto. Zuppa. Ragazzi, io adesso non vorrei interrompere le vostre cose, ma ho appena ricevuto su Facebook una richiesta di amicizia da mio suocero. Non so cosa fare. Vuole adottare i figli? Ah, potrebbe essere. A proposito di messaggi, abbiamo un messaggio da dei Coxo ascoltatori. Allora, ma qua è calata la tensione, non so se senti. La domanda è questa. Il nostro ascoltatore che ha mandato questo messaggio al 333-180-94-94, e approfittatene perché abbiamo ancora pochi minuti per spremere di domande i nostri ospiti. Ma perché si chiama Uba? Non è il tuo nome di battesimo? È qui casca l'asino dopo essere inciampato. Dunque, è da quando avevo 8 anni che tutti mi chiamano così. 8 anni? Sì. Quindi non è il tuo nome di battesimo? No, io mi chiamo Guglielmo Ubaldi. E da quando ho 8 anni tutti mi chiamano così. E quando dico tutti intendo tutti. Anche i professori? Tutti. Tuoi figli? Tutti no, loro no. Loro ti chiamano papà. Loro mi chiamano papà, tutti. Il Bond, tu mi chiami, neanche il Bond. Scherzo, tutti mi chiamano Uba. E la cosa bella è che l'unica che non mi chiama Uba, che mi chiama con il mio vero nome, è mia madre, che mi chiama Guglielmo. Quindi se vuoi puoi chiamarmi Guglielmo, Barbara. Rispondi. Però se mi chiami Guglielmo io ti devo chiamare mamma. Io divento tua madre. Sì, quindi poi nasce un... cioè un interessante problema lessicale, cioè lui non riesce a pronunciare GL, infatti dice Guglielmo, no? Sentiamo? Guglielmo. No, un pochino. Ma fatica, ma perché è un trauma? È tutto vero, è tutto tristemente è vero. Ah, votiamo questo Ubba, sacco, continui Mr. Bon Bond. No, quindi Ubba non contiene il GL e lui si presenta come Ubba, anche se vorrebbe dire solo Guglielmo. Ma non ci riesce. Non ci riesce, e quindi Ubba. Cioè, tipo a 8 anni non era ancora esplicito, perché uno dice: ma ho cominciato a parlare solo da 5-6 anni, magari c'ho tempo. Ok, ma a 8 anni io ho iniziato a parlare da un anno, Barbara. Ecco, vedi. E poi è andata così. Ma la B, la U, sono tutte queste belle curve, sembrano delle colline. Ma sai che non ci avevo mai. Però questa donna non solo è colta, è anche profonda. Assolutamente sì. Perché vedi, questo genere di riflessione io non l'avevo mai fatto. Cioè, la G è una lettera molto spigolosa. Invece vedi la B come mi accarezza, vedi come mi arrotonda, sì, vedi come mi smussa. Roba strana è la A. È un po' appuntita. No, però dipende da come la fai la A. Perché se la fai con l'angolo è spigoloso. Andare, quindi è il contrario della U. Parliamo di font, Piero. Questa A di Ubba, come la vogliamo fare? No. Lui se le scrive a mano. Ce lo sa, posso farlo. Tutti i suoi scritti sono manuali. È un uomo incredibile. E che scrittura ha? Viene dall'antico popolo fenicio che gli ha insegnato direttamente questa scrittura. Assiri e babilonesi, io alle partite tifavo sempre per gli assiri. Perché? Perché avevano queste S che erano così curve, ti ricordavano le B del tuo nome. Vedi, ha già detto tutto. Io ragazzi sono veramente commosso. Scusa. C'era anche l'Eufrate però. C'era anche l'Eufrate. Ma c'era proprio la squadra dell'Eufrate. E l'Euchirichetto. I giocatori erano gli Eufrate. Stiamo proprio scendendo in basso. No, ma sai una cosa? Perché mia suocera, no? Mi telefona era tutte le sere. Mio suocero mi telefona tutte le sere, mi dà aggiornamenti sulla situazione politica tra Siri e babilonesi. E quindi di conseguenza sono molto informato. Mi ha detto un sacco di cose interessanti mia suocera. Tipo mi ha raccontato come all'epoca costruirono le piramidi, no? Tu sai che c'era un grande mistero. Cioè, sono stati gli alieni, no? No, lei mi ha detto che c'era anche lei. Ah? E mi ha detto che non sono stati gli alieni. Ma no, davvero? No, non sono stati gli alieni. Rivelazione... E quindi? Se lo vogliamo sapere dobbiamo chiamare mia suocera. Chiamiamola. Non te lo consiglio perché se la chiami la telefonata dura 8 ore e mezza. Ma tanto tra 10 minuti finiamo, quindi... Parla in Cina. Sì, questa è... Ecco, praticamente tutto lo spettacolo di domani è basato su questa cosa. Sulla nonna in Cina, sulla suocera in Cina. Sei riuscito a mandarla in Cina ma tutto. Non puoi fare a meno di lei. Imbacca tutto. Va bene, ma tanto noi domani non andiamo a vedere al Baracchiano, a vedere Ubba Live Comedy. Noi domani andiamo, ho un'idea ragazzi, domani noi andiamo all'European Ghost, che è un... A che vedere... è di mercoledì, quindi anticipate il tempo. Ok, allora domani... Dato, tu hai superpoteri, me l'hai confidato prima di entrare in diretta. Ah ragazzi, questa è una storia veramente pazzesca. Siamo sicuri di voler concludere il programma con quella storia? Lo vogliamo fare, Barbara? Metto prima un branino? Facciamolo. Ok, metto prima un branino e a questo punto mettiamo questo branino qui. Chi è entrato? Oddio! Che non parte! È partito? Allora sì. Rimaniamo noi. No, è partito. Però fa un po' così. Più di te, sempre uno più di te, da grande se avrei l'autorità, non giochi più tutta la vita, maestra, il bambino marrone ci sputa, vedrai adesso ti metti a posto, maestra, perché ce le dai, tu no, come no? Vedi come sono bravi? Oh no. Ah, basta si rifà. Tu no, tutti tranne te, noi sì e tu niente, da grande se potrei imparerai, parli anche tu. Tu la nostra lingua maestra e bambino. Scusatemi, è tanto carina anche questa canzone, non la trovo sexy ma mi sta simpatica. L'avete riconosciuto? Certo, Gianni Morandi questo. Sempre lui, l'immancabile Evergreen. No, vabbè, ritorniamo alla 266esima puntata del Cocco Spaziale che sta per finire. Sì. Sta per finire, finirà in quanti minuti? Qui comincia la conta 5 minuti e 10 secondi. Qui comincia 9. La conta del minutaggio, okay. Perché abbiamo ogni orologio che fa un'ora diversa. Certo. D'altra parte il tempo è relativo, no? Questo sì. Lo insegnava Albert Einstein. Dice Ubba che domani andrà al concerto di mercoledì. giustamente. Allora, per questi ultimi minuti redigiamo le distanze dal microfono, per cortesia. Ok. Ok, bravissimi. Nel frattempo facevamo un concerto di sedie 2. Ma è importante... Ubba! Live comedy! Live Comedy 83 domani alle 83, scusate. 83. Domani al Baraccano alle 21. E anche se non ho fatto in tempo a fare il biglietto online, potete venire direttamente a presentarvi lì. Una dritta per chi ci andrà, che ancora non lo sapeva, una dritta, un coxo scoop, portate le scarpe da ginnastica che serviranno. È assolutamente vero, molto importante. Altra cosa molto importante che è giusto che i nostri ascoltatori e soprattutto telespettatori sappiano è che chi si presenta in pigiama avrà diritto a un biglietto omaggio. Per dopo averlo già pagato? Chi ancora non l'ha comprato. No, il pigiama, dopo aver comprato il pigiama. Ah, ok, fatto lo scontrino. No, ma a parte tutto. Ma è vera questa cosa qui, la faccio sempre a tutti i miei spettacoli. E il Bond, che è il mio produttore, mi rimprovera sempre perché dice: Uba, non lo puoi fare perché poi vengono tutti in pigiama e nessuno paga il biglietto. Quindi c'è sempre questo scontro. Però tu, quando arrivano in pigiama, cambi, dici quelli che vengono vestiti da cucina. Ma no, bellezza. Vedi un pigiama. Gli vendi un pigiama al costo del biglietto. Com'è che si dice quando brandizzato? Un pigiama brandizzato. È la svolta produttiva allo spettacolo. La morbidezza ubosa. La morbidezza ubosa. Per i tuoi sogni più psichedelici. Assolutamente. E un po' anche. E niente, comunque, sì, ci sono ancora un po' di biglietti disponibili. Mi fa il segno qui il mio produttore di dire. Ci sono ancora una ventina di biglietti disponibili, si possono trovare online su Viva Ticket, se no presentatevi e mi raccomando fatelo in pigiama perché entrate gratis. Infradito c'è anche una... più vicino se vengono anche in infradito. No, deve essere un pigiamone con gli orsacchiotti. Sì, è chiaro. Ma una domanda sempre per Piero, per lo spettacolo di domani tu hai fatto quegli esami per poter fare somministrazione di alimenti? No. Quindi è anche illegale lo spettacolo di domani? Ma certo, deve esserlo. Illegale, surreale. Sì, diciamo che tutto quello che finisce con Ale. Ecco, il secondo il titolo, no, di questo spettacolo è Ubba Live Comedy 83, Vite al limite. Esatto. Ah, ecco. E l'84? L'84 sarà Vite svitata. Dove? Quando? Torni a raccontarcelo in anteprima? Farollo. Allora, noi a che punto siamo? Voglio una vite. No. Siamo. La voglio svitata. Siamo alle 57. Vogliamo cominciare con i saluti? Voi siete alle 45? Vediamo se sono arrivati altri messaggi. Guarda, qui noi abbiamo un orologio, c'è scritto che sono le 8 e un quarto. No, sono le po' 58:24. Le po'. Qua sono le 58. Sul computer sono le 57. Sì. Allora, io però, Barbara, posso dirti una cosa nell'ultimo minuto? Sì. Tu non mi hai lasciato lo spazio per raccontare come ho smesso di fumare. Vai, adesso. No, perché questo trauma, per colpa di questo trauma, io adesso esco e mi accendo la paglia, capito? No. Ragazzi, sì. No, ma questo vuol dire che quel signore non aveva i reali... non aveva i poteri magici, i superpoteri. È una lunga storia. la racconteremo in un altro momento. No, comincia veloce, io poi ti sfumo. Allora manca un minuto. Praticamente io sono sceso, dovevo andare a prendere la spazzatura, c'era il bidone della spazzatura, incontro questo vecchietto. Questo vecchietto era un tipo veramente interessante, assomigliava ad Einstein. Einstein, noto scienziato che, come ben sapete, nel 1905 inventò, scoprì la relatività ristretta, ma non prese il Nobel in quell'occasione, no, perché era troppo avanti. Quindi prese il Nobel nel 1921 per l'effetto fotoelettrico, e ovvero questa sia la differenza tra... E questa era la 266esima puntata del Coxo senza Stefano Pasquini. Ondulatoria della luce. con grande braga nativa, Ubba e i suoi Guy Crew. Gay crew. Ciao. Gay crew. Gay. Ubba and the gay guys. No. E ci vediamo la settimana prossima, ma prima di tutto ci vedremo domani in prima fila, in pigiama, con tante scarpe da ginnastica. Tu vieni, vero? Di sicuro. In pigiama? Ma è il mio è la mia miss preferita. Sì, sì. L'ha detto, eh? L'ha detto. Va bene. Quindi. E a questo punto vi lascio con le super mega galattiche pubblicità delle 9. Vediamo se riesco a tirare su, ecco. Ciao. Sì, ciao. Allora.